segreto indomito e disperso in un passato che non se ne va. Qualcosa sta tornando e adesso chiede di te. Sopravvissuto alle menzogne, respirando l'oscurità, incrocerà il tuo sguardo e allora saprai che cos'è la furia, il delirio di chi ha visto il volto ruvido ed intenso di un antico spettro che non sa dimenticare il canto nudo e debole ma immenso di chi non perdonerà. Ma non c'è mostro senza il cavaliere che lo combatte, eroico affronterà per te. Lo scudo è di silenzio e la sua spada sono promesse per salvarti ancora una volta da ciò che non devi conoscere. Senti, bugie vestite a festa, io so cosa scegliere.